come la primizia dei tuoi segni, come il mare due punte di scoglio, li hai messi nelle mani di chi afferra concessi come l'uva nella bocca. Tu sei il limite di chi cerca la terra, tu sei il limite di chi ti tocca, tu sei l'antipatica e la bella. Sei quasi nuda, sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito. E non ho niente, dici, non ho niente. Tutti pensano che non hai niente addosso, dici. È vero, ma quel che posso, il mio sentimento è niente addosso. Tu sei il tuo processo ad ogni passo come se ballasse. Tu sei la confessione ad ogni canto, e c'è il godimento, e godo il pianto. E crediamo di creare sentimenti, li leghiamo ai piaceri e tormenti, li diciamo coi sospiri e con la mente, li giuriamo come se non fosse vero. Noi proviamo quello che proviamo, li vogliamo assurdi come fantasie, li vogliamo credibili ma li diciamo con parole incredibili. Antipatica la bella, io sono il mio processo ad ogni passo, la confessione di un mio gesto un ballo, io sono il mio processo ad alta voce, e se confesso che respiro io canto. Facciamo un gioco bello come il mare, sono io, mi faccio attraversare, il corpo nudo è il limite del mondo, si muove come l'acqua. Anoxa!